Jim, te lo dico in faccia. Il tizio che ha ucciso Johnny non se la passa liscia. Murray, del tizio che ha ucciso Johnny tu te ne devi fregare. Se mi volessi vendicare, ti lascerei uccidere quel verme per vederti bruciare all'inferno. Vuoi che parliamo di queste stronzate? Tutti gli studiosi cattolici dicono che ogni cosa che facciamo dipende da una libera scelta. Ma allo stesso tempo dicono che ci serve la grazia di Dio per fare quello che è giusto. Vienimi dietro, Jane. Se io faccio qualcosa di sbagliato, è perché Dio non mi ha dato la grazia per fare ciò che è giusto. Sentirei. Niente succede senza il suo permesso, quindi se questo mondo fa schifo, è colpa sua. Io posso lavorare con quello che mi ha dato lui. Così se uno finisce con 3 proiettili nel cranio è colpa di Dio. Ma non ti vergogni. Non mi vergogno per niente. Non l'ho fatto io il mondo. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Di Matteo Caccia. Sono un po' permalosa di mio. Già ero un po' arrabbiata che non mi facevano giocare. In più quando hanno cominciato proprio a deridermi, là è salita la rabbia, tutta in un colpo e basta, non ho visto più niente. Appena videro che avevo le ortiche in mano, capirono che li avrei punti e cominciarono a correre. Storie di passeggiate notturne, ortiche e scambi in culla in una puntata tutta dedicata al vizio dell'ira. È una puntata molto ricca quella di oggi, è veramente ricca di storie, ne abbiamo un pochettino più del solito, quindi mettetevi comodi perché saranno dei viaggi abbastanza avventurosi anche, soprattutto il primo. Parliamo di ira e lo facciamo come sempre attraverso delle storie, ovviamente. Cerchiamo di capire da che parte e in che modo nelle nostre vite i vizi capitali, quelli vecchi e quelli nuovi, che come ieri ad esempio abbiamo scoperto, lavorano al confine tra la luce e l'ombra, al confine tra il razionale e l'irrazionale. Linee d'ombra racconta esattamente questo, quelle storie che fanno da confine all'interno delle nostre giornate. E il vizio dell'ira, lo abbiamo detto un sacco di volte e ci torneremo su anche con l'ospite di oggi a cui vorrei proprio chiedere questa cosa. Il vizio dell'ira è il vizio più frequentato dalle storie che ci arrivano, ce ne sono tantissime che parlano di quello. In questa puntata noi apriamo con una storia che cerca di raccontarci come trovare rimedio a quella sensazione, a quell'emozione, al desiderio di spaccare tutto. Poi avremo un'altra storia che ci racconterà non tanto un rimedio quanto a un'esplosione di ira tale che impedisce alla protagonista di sentire l'effetto che fanno delle ortiche raccolte come un mazzo di fiori. Ecco, questo per capire il livello di sangue agli occhi che arriva alla protagonista della prossima storia, che tra l'altro è una ragazza giovane, come è successo una decina di giorni fa. Abbiamo una storia di una ragazza che ha 16-17 anni e quindi per noi queste storie sono molto molto preziose sempre. E poi abbiamo una storia incredibile, una storia veramente incredibile che arriva dalla Sicilia, una storia di qualche anno fa che in realtà però continua, prosegue, si sviluppa nel tempo, perché è la storia di due ragazze che non sono gemelle, non sono nemmeno sorelle a dire la verità, anche se insomma intersecchiamo quel tema nella puntata di oggi, non sono nemmeno sorelle, vi dicevo, eppure vivono insieme come se lo fossero, il tutto per un errore proprio il giorno della loro nascita. Abbiamo diverse storie, partiamo con ordine, partiamo con la prima, è una notte e saliamo in montagna. Benvenuti a Linee d'ombra. Quella sensazione potevo descriverla così. Un insieme di tante piccole arrabbiature e preoccupazioni quotidiane non affrontate, dimenticate, tralasciate e ancora vive e vegete dentro mente e corpo. Goccia dopo goccia il vaso di rabbia e frustrazione era colmo. Stava per scoppiare. Non è sempre facile buttare fuori la rabbia, piccola o grande che sia, e canalizzarla in modo positivo. La vita quotidiana va troppo di fretta. Dovevo trovare un attimo per me. Alle 6 di quel sabato ero sveglio come sempre, come ogni giorno. Colazioni da preparare, figli da portare a scuola, lavatrici da fare. No, quel giorno niente di ciò che per me era quotidiano. Fuori faceva ancora buio. Le nuvole coprivano e scoprivano la mezza luna come una mano che accarezzava più volte un viso. Decisi di partire a piedi, al buio. Presi il sentiero nel bosco che, poco distante da casa, si inerpica vicino al Monte Faet, 500 metri di dislivello. Pochi ma buoni per quel giorno. Il buio premeva ancora, ma il suo velo a coprire il mondo avrebbe lasciato posto al sorgere del sole. Prima o poi è sempre così, dalla notte dei tempi. Anche per l'anima delle persone funziona così. Io iniziai la salita. Conoscevo quel sentiero a memoria, ma di notte tutto sembrava diverso. Il silenzio che regnava mi aiutava a sentire la rabbia dentro. Bollivo come una pentola di fagioli che borbotta sul fuoco della stufa. Iniziai a salire a passo spedito, forse troppo. Ma anche i passi erano arrabbiati e la ripida salita non fermava quei passi. Ognuno aveva un'arrabbiatura quotidiana a cui dare un nome. Piccole cose, tutte accumulate. Stavo sudando tantissimo. Ecco la rabbia che se ne va, pensai. Mi accorsi che per la prima volta sorridevo, anche se lievemente. Il chiaro del giorno poco a poco faceva breccia nel cuore della notte che, come due lavoratori al cambio di turno, si stavano cedendo il posto con cura e rispetto reciproci. Dal paese sentivo giungere i canti dei galli. Sopra di me, tra le ombre delle fronte dei faggi, ecco gli ultimi richiami di civetta. Sentivo poco a poco salire un senso di pace. Ero da solo nella natura, nella linea che separa la luce dal buio. Così era fuori e dentro di me. Salì ancora, ero fradicio di sudore. Ciao rabbia, pensai. Sorrisi per la seconda volta, rallentai il ritmo, anche i passi si stavano calmando. Le cince canticchiavano allegre, inseguendosi tra gli alberi per salutare il giorno. Le prime foglie autunnali cadute scricchiolavano sotto i miei piedi come il suono di noci che si rompono. Arrivai in cima. Il sole si stiracchiava verso l'alto e andava a curiosare tra le finestre ancora chiuse di un paese per buona parte dormiente, tra le fronde degli alberi e nei pensieri annebbiati. Dall'alto vidi la distesa di pianura dilatarsi come quando si aprono le braccia per dire «ti voglio bene tanto così». E allora allargai anche io le braccia. Pensai ai miei figli, pensai a lei, pensai alla vita. Era bella. Mi volevo bene. Con il sorriso stampato in viso, tornai indietro verso casa. Fradicio di rabbia, ma che ormai era fuori di me, sulla maglietta. Dentro avevo lasciato posto alla libertà. Arrivato a casa, misi la maglietta in lavatrice e tornò pulita e profumata. La rabbia se n'era andata, senza litigare né con gli altri, né con le situazioni della vita, e tantomeno, soprattutto, nemmeno con me stesso. Well, I walk upon the river like it's easier than land. Evil's in my pocket and your will is in my hand. Oh, your will is in my hand. Throw it in the current that I stand upon so still. Love is old from what I've heard, but my heart's learned to kill. Oh, mine has learned to kill. Love is All si intitola questo brano di The Tallest Man on Earth che Luca Micheli ha scelto per chiudere questa prima storia che vi abbiamo raccontato. Questa appunto è una storia di un uomo, Dennis, che ci racconta qual è il suo metodo personalissimo per cercare di stemperare la rabbia. Io credo che ognuno abbia il suo, anzi se avete voglia 349-238-6666 349-238-6666, WhatsApp ed SMS per raccontarci cosa fate voi per calmare quella rabbia che capita di accumulare spesso durante la giornata di lavoro, a casa o una rabbia che arriva da chissà dove. Se avete un vostro metodo, andare a fare una corsa, andare a fare una passeggiata, che so, gli origami, disegnare, giocare ai videogiochi, raccontatecela, 349-238-6666, perché si parla anche di questo oggi, anche di come si stempera la rabbia e come si cerca di calmarla. Non è così nella prossima storia, invece. Nella prossima storia la protagonista, che è una giovanissima ragazza, e lei è ancora più giovane all'interno della storia che ci racconta, dà tutto lo sfogo possibile alla sua rabbia e lo fa anche grazie a delle ortiche. Mio fratello ha 3 anni in più di me. Con un suo coetaneo, in un bel pomeriggio di sole d'estate, decisero di costruire un bellissimo circuito nel cortile di casa mia, automobiline. Composto la terra e i tegole dei tetti per costruire le curve, dove avrebbero giocato proprio con le macchinine nuove che avevano comprato. Vedendo loro che si divertivano, io avrei voluto giocare, allora chiesi di poter giocare anch'io. Risposero subito di no. Insistetti e provai a chiedere spiegazioni. Perché non volevano che giocassi con loro? La risposta non cambiò. Allora mi misi a piangere e andai a casa. Quando arrivai a casa, mi misi a giocare da sola con i Lego di mio fratello. Questa cosa durò molto poco, perché non mi piaceva stare in casa da sola con quella bella giornata. Allora uscii a giocare a pallone, però dopo un po' di tempo mi annoiai di stare lì e pensai di riprovare a chiedere di giocare insieme a quei due. Non mi volevano far giocare con loro perché ero più piccola. Se io mi avvicinavo a loro per giocare, e loro mi mandavano via e ridevano di me perché mi arrabbiavo e piangevo. Però adesso ci ridiamo su anche con mio fratello e questo nostro amico. Qualche volta salta fuori il discorso e mi prendono un po' in giro, ma per ridere. Frugai di nuovo tra i giochi di mio fratello e trovai una macchinina. Ero molto felice perché pensavo che arrivando da loro con quella macchinina mi avrebbero lasciata giocare. Tornai in cortile con la mia piccola automobilina, mi misi a giocare con loro, però cominciarono subito a spingermi e a cacciarmi. Io mi arrabbiai, come al solito mi misi a piangere. Questa volta però non andai a casa, rimasi lì in disparte. Loro continuarono a deridermi, a prendermi in giro, proprio perché piangevo. Da quel momento in avanti cominciai a vedere tutto nero. Mi diressi verso casa e mentre correvo sentivo che loro stavano ancora ridendo. Mi fermai allora di fronte a un cespuglio di ortiche e dalla rabbia ne strappai 2 pugni a mani nude. Tornai indietro verso di loro con passo veloce e appena videro che avevo le ortiche in mano, capirono che li avrei punti e cominciarono a correre. Non mi facevano male perché ero talmente arrabbiata che non sentivo il dolore e non lo so, è la prima roba che ho visto, mi è sembrata un'arma, sì, per dire, e volevo pungerli, non lo so, volevo vendicarmi un po'. Alla fine non li ho presi perché correvano di più e sono riusciti a seminarmi e mi sono arrabbiata ancora di più, però è finita lì. Cominciai a correre anch'io, ma loro erano più veloci e non riuscivo a raggiungerlo. Corsi per un po' di tempo e mi arrabbiavo sempre di più, fino a quando riuscirono a nascondersi e io non li trovai più. Lanciai le ortiche e con le lacrime di rabbia tornai di corsa a casa. Per tornare a casa passai per il giardino, vidi la pista, sfogai tutta la mia rabbia su di essa, la distrussi completamente, prendendola a calci. Find a cure for my life, find a cure. Find a cure for my life, find a cure. Find a cure for my life. Oh my God, oh, you think I'm in control? Oh my God, oh, you think it's all for fun? Oh my God, oh, you think I'm in control? Oh my God, oh, you think it's all for fun? Been a smile on my face, been a smile. Been a smile on my face, been a smile. Been a smile on my face, been a smile. Been a smile on my face. Put a prize on my soul, put a prize. Put a prize on my soul, put a prize. Put a prize. La puntata di oggi, come avrete capito, è dedicata all'ira, ma come facciamo ultimamente? Cerchiamo di prendere, sì, spunto dal vizio capitale che trattiamo e per provare a indagarne, sempre attraverso le storie ovviamente, una parte. La parte di ira che indaghiamo è quella legata ai fratelli, al vivere insieme. La storia di Isabel è molto chiara, racconta di un momento, insomma, difficile da gestire da un punto di vista dell'emotività, al punto, e questo è il pezzo della storia che più mi ha tenuto attaccato, al punto da prendere un mazzo di ortiche in mano senza nemmeno sentire il dolore per andare a scagliarsi contro il fratello e l'amico. Pronto, ciao Isabel, buongiorno. Ciao, buongiorno. Come stai Isabel? Bene, dai, tu? Alla grande. Di sempre alla grande, così diciamo quello che hai davanti dice: ah, ma dai, che fortunato. Poi insomma, poi te la aggiusti tu, È un consiglio che ti do solo perché sei più giovane di me. Ricordami quanti anni hai, Isabel. 17. Quindi fai la quarta superiore? Dovresti essere in quarta. Sono stata bocciata un anno. Quindi sei in terza? Sì. Senti Isabel, tu esattamente che cosa ti ricordi di quella giornata? Mi diceva Anita che in realtà, diciamo, alcune cose sono un pochettino sfocate, però avendocela raccontata, quello scatto di ira lì te lo ricordi? Ti ricordi l'effetto delle ortiche nella mano? Sì, non mi ricordo molto perché è successo un po' di anni fa, però mi ricordo che ero molto arrabbiata e niente, non ho sentito il dolore quando ho preso le ortiche. L'hai mai più rifatto di prendere in mano delle ortiche? Cosa, scusa? L'hai mai più rifatto di prendere in mano delle ortiche? No, okay. Che mi ricordi no. Senti, che rapporto hai con tuo fratello? Boh, adesso andiamo d'accordo. È più grande o più piccolo? È più grande, ha 3 anni in più. Mi è piaciuto il boh che hai messo davanti, che in realtà è un po' interrogativo. Bah, insomma, sì, più o meno andiamo d'accordo. Senti, tu... No, sì, dai, andiamo d'accordo adesso. Ricordami che cosa studi, che scuola fai. L'alberghiero. E quindi hai già un indirizzo preciso all'interno della scuola alberghiera oppure no? Sì, sala e vendita. Sala, quindi sala vuol dire accoglienza, cameriera... Cameriero. Senti, cosa vuoi fare da grande esattamente, Isabel? Hai già un'idea chiara? Esattamente non lo so, ma mi piace guidare, mi piacciono le macchine e quindi penso di puntare su quelle cose. Cioè, ma nel senso, scusami, come fai a saper guidare che hai 17 anni? Stai tranquilla, non c'è in ascolto nessuna forza dell'ordine, non veniamo a prenderti. Dove lo fai? In cortile? Lo fai su strade non, diciamo... Sì, in giardino qualche volta, provo a parcheggiare così a partire. Ok, e quella cosa lì ti piace farla? Sì. Senti, e invece mi dici perché, se lo sai, per quale motivo il nome Isabel, da dove arriva? Non lo so, non ne ho idea. Cioè, non l'hai mai chiesto ai tuoi? No. Va bene, Isabel, senti, stai studiando? Mi sa che ti lascio andare, ti ho disturbata, stavi facendo qualcosa di importante? No, non stavo facendo niente, tranquillo. Domani hai compiti in classe, interrogazioni? No, ho finito scuola per questo... Ah, come hai finito a scuola? Ho cominciato stage. Ah, e cosa fai in stage? Cameriera. Certamente, scemo io a chiedertelo. Isabel, ti ringrazio per la telefonata un po' ostica, ma ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo portata a casa. In bocca al lupo per tutto, davvero, Isabel. Grazie mille. Ciao, a presto, buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Tra i metodi per calmare, placare o incanalare la rabbia, al 349-238-6666, Simonetta scrive: a 50 anni ho iniziato a suonare il pianoforte, avevo bisogno di un angolo di pace tutto mio e tra le note riesco a trovare un pochettino di tranquillità. Ora sentiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linea d'Ombra. ed ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. E che ruolo può avere l'ira, la rabbia in una situazione al limite davvero della gestione dell'essere umano? Una situazione in cui delle giovani madri danno alla luce una bambina molto vicina nello spazio e nel tempo, e quelle due bambine vengono scambiate. Come l'ira può lavorare all'interno di queste persone? Come può rovinare il rapporto all'interno delle famiglie e tra le famiglie? Ecco, fortunatamente nella storia che stiamo per raccontarvi l'ira ha un ruolo veramente di profilo molto molto basso, perché la prossima storia è proprio questa, è quella di due ragazze che oggi vengono chiamate le gemelle, anche se gemelle non sono, e a dire il vero non sono nemmeno sorelle. Eppure la storia di Melissa e di Caterina, per chi la conosce, è ricordata come la storia delle gemelle di Mazara del Vallo. State con noi. È la notte di Capodanno del 1998. Siamo nel reparto ginecologia dell'ospedale Abele Aiello di Mazara del Vallo, Sicilia, provincia di Trapani. Due giovani donne sono in sala travaglio, stanno per partorire. Sono passate diverse ore e tutto è pronto per la nascita, anzi, per le nascite. Dal momento che le bambine a nascere quasi contemporaneamente sono due, e sono due femmine. I nomi sono già stati decisi dai rispettivi genitori. Una sarà Melissa, l'altra sarà Caterina. In quella notte del Capodanno del 98 succede però qualcosa. Forse l'euforia per i festeggiamenti, forse la distanza molto ravvicinata tra le due nasciture. Tant'è, prende forma uno degli incubi più terribili per un genitore. Portare a casa appena nato un bambino, un figlio, che non è il tuo. Melissa e Caterina vengono scambiate. Le due famiglie tornano a casa. Il tempo passa, passano i giorni, le settimane, i mesi. Le bambine crescono, fino ad arrivare a 3 anni. A quell'età i visi hanno ormai una fisionomia precisa e le due giovani mamme a volte ci pensano. A volte rispondono alle domande del tipo «Ma a chi somiglia?» con risposte sfuggenti, fino a che arriva un giorno che segnerà per quelle due donne, per quelle due bambine e per tutte le loro famiglie un prima e un dopo. Una delle due mamme va all'asilo per prendere le sue due figlie più grandi e per la prima volta vede la sua vera bambina. È mano nella mano con un'altra mamma. Ma non c'è dubbio alcuno, per lei quella bambina è sua figlia. La somiglianza è innegabile. È un dubbio atroce che non la molla mai, fino a che lo confessa al marito. A questo punto chiedono di incontrare l'altra famiglia con il dubbio terribile che a questo punto la bambina che hanno cresciuto per 3 anni non sia la loro figlia naturale, ma che invece appartenga alla coppia che ha cresciuto la loro bambina. E in pochi giorni, con delle semplici analisi del sangue e un test del DNA, la verità viene a galla. C'è stato uno scambio in culla. Quelle due bambine stanno crescendo nelle famiglie sbagliate. È un trauma assoluto. Un trauma che tocca le identità personali e quella delle intere famiglie. A questo punto, con l'aiuto di medici e psicologi, decidono per l'unica cosa possibile: lo scambio delle figlie, per farle crescere nelle famiglie naturali. Lo scambio avviene il 2 di gennaio del 2001, poco dopo i festeggiamenti per il compleanno delle due bimbe. La festa di compleanno delle due bambine viene fatta in una sala che è affittata per l'occasione. È una festa bellissima, ci sono 80 persone, nonni, zii, cugini, padrini, tutti attorno alle due bambine, un sacco di regali e loro due felici come non mai. E poi, alla fine di quella festa, ognuna delle due bimbe va a dormire con i genitori veri, portandosi dietro i giocattoli più cari. Il compleanno è stato festeggiato con un giorno di ritardo per sviare l'attenzione dei giornalisti che in quei mesi prendono d'assedio le abitazioni delle famiglie coinvolte nello scambio. Le due bimbe all'inizio reagiscono bene, ognuna cerca la madre, quella con la quale è cresciuta. E quindi quando succede, prima tutti quelli intorno la rabboniscono dicendo che la mamma è andata dal dottore o a fare la spesa o sta tornando. Poi chiamano la madre e quella arriva subito. Poi, lentamente, le bimbe crescono. E lo fanno in armonia con una famiglia che ora non è più solo una famiglia, ma un nucleo allargato fatto di 4 genitori, diversi fratelli e sorelle, 4 nonni, un numero imprecisato di zii e di zie. E poi amici che iniziano a frequentare dall'asilo in avanti. La decisione di tenere vicini i due gruppi familiari viene presa da giudici e psicologi. Una volta ristabilita la normalità, le bambine dovevano mantenere l'ordinarietà del vissuto, così dicevano, senza perdere nessun contatto coi genitori che avevano conosciuto fino a quel momento. Non è tutto facile all'inizio. Tra le due madri si crea una sorta di malsana competizione per via del fatto che si percepiscono come la donna che ha rubato la figlia dell'altra. Ma le cose fortunatamente si aggiustano. E solo quando le due compiono 8 anni, lo psicologo che ha sempre seguito le bambine parla loro dello scambio, raccontando di un errore della cicogna. Le due bimbe crescono, diventano due ragazzine e sono sempre vicine nella vita, a scuola. Crescono una a fianco all'altra, nei banchi delle elementari, delle medie e delle superiori. Si iscrivono alla stessa università a Chieti, alla facoltà di Scienza dell'Educazione, dove condividono anche la stessa stanza. E per tutti sono le gemelle, anche se non hanno in comune nemmeno una goccia di sangue, ma solo un'esperienza che loro non ricordano, che però ha segnato le vite loro e delle loro famiglie. Famiglie che oggi hanno ricevuto un risarcimento di 430.000 euro l'una, di cui 130.000 destinati alle due ragazze. Breath along the way. La storia delle due gemelle di Mazara del Vallo noi l'abbiamo letta su Repubblica, su Panorama, anche se in realtà è una storia che è abbastanza conosciuta, se fate una ricerca trovate sicuramente molto di più. Io spero di aver risposto con la seconda parte della storia ad alcuni dei messaggi che sono arrivati al 349-238-6666, come quello di Claudio che dice: ma quanti anni avevano le bambine? Non era preferibile lasciarle dove avevano vissuto? La prima domanda è che avevano 3 anni quando se ne sono accorti, come avete sentito. Sulla domanda se era preferibile lasciarle dove hanno vissuto, noi non lo sappiamo. Insomma, non siamo educatori, raccontiamo storie. A giudicare come stanno adesso le due ragazze, direi che invece è stata la scelta giusta. Anche Saverio scrive molto arrabbiato, dice: ma sono tutti pazzi furiosi, io mi terrei mia figlia. Però non è che siamo qui a dare a ognuno le opinioni su come educare, su come formare dei bambini che sono stati cambiati nella culla. Noi raccontiamo storie, insomma, raccontiamo storie, ve le raccontiamo per come sono. Al resto lasciamo fare a chi sa e a chi ne sa sicuramente più di noi. Ed è per questo che tra poco sentiremo anche una psicoterapeuta per chiederle metodi per placare la propria rabbia. Ora Le Strade in diretta e poi torniamo qui con lei, con Monica Morcone. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Ed è un po' che ve lo raccontiamo, che vi raccontiamo il fatto che da un punto di vista statistico, anche se non è una vera e propria statistica quella di Linee d'Ombra, però tant'è, insomma, se mettiamo insieme tutte le storie che ci arrivano legate ai vizi capitali, quelle vecchie e quelle nuove, di gran lunga il vizio dell'ira stacca gli altri, ma di diverse lunghezze, proprio sul podio da solo, da moda, da ormai da tempo, e c'è chiaro, perlomeno a noi c'è molto chiaro, sono tantissime le storie di ira che ci arrivano. Ve ne abbiamo raccontate due oggi, quella di un adulto e quella di un bambino. Che hanno una bambina, una ragazzina, insomma, che hanno modi diversi di gestire e di sfogarla l'ira, ovviamente, come è normale che sia. Per capirne qualcosa di più, come sempre facciamo in questa parte del programma, abbiamo chiesto a, non so se si offende, ma a un'esperta della gestione della rabbia. Lei ha scritto diversi libri, tra i quali Gestire la rabbia, Mindfulness e Mandala per imparare a controllare e usare questa emozione travolgente, e La rabbia delle donne, come trasformare un fuoco distruttivo in energia vitale, pubblicati entrambi da Franco Anni. Dottoressa Morganti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie mille per essere qui. È un piacere. Dottoressa, la si può definire un'esperta nella gestione della rabbia o è, diciamo, eccessivamente prosaico? No, dunque diciamo che io in quanto psicoterapeuta mi occupo delle emozioni e anche nella mia stanza, come dice lei, la rabbia è molto presente. Quindi in questo senso sicuramente siamo a un'expertise. Ok. E poi, come appunto era molto presente, ci ho scritto anche dei libri. Ecco, diciamo, quindi ho molto approfondito. Ecco. Benissimo. E allora abbiamo chiamato la persona giusta, dottoressa, perché come dicevo poco fa, prima di introdurla, appunto, noi siamo abbastanza stupefatti dal numero di storie che ci arrivano legate alla rabbia, considerato che appunto trattiamo un arco quello dei 7 vizi capitali e anche di alcuni nuovi che stiamo cercando di indicare e di selezionare. È davvero così, dottoressa? Anche nel suo studio capita così di frequente che diciamo le persone le chiedano di capire il perché e di gestire questa emozione? Sì, allora, dunque, diciamo, innanzitutto a me chiaramente viene un po' difficile pensarlo un vizio capitale, nel senso che è un'emozione certo, in quanto tale legittima. Assolutamente. Il punto è come uno la gestisce. Mm-hmm. Allora, perché le persone vengono in terapia e mi parlano della rabbia? Per due ragioni: o perché hanno una rabbia esplosiva, che quindi appunto rende difficile le loro relazioni, oppure che abbiamo una rabbia introiettata. Si dice che è la modalità depressiva, cioè anche la depressione, che è un altro dei temi grandissimi della nostra società di questo momento, mm-hmm, è rabbia girata verso di noi. Quindi in questo senso la rabbia è molto presente nella mia stanza. Che ha a che fare con i comportamenti passivo-aggressivi, no? Sì, sì. Ne sapevo una, volevo dirla, dottoressa, mi perdoni, ci ho provato. Sapevo una definizione. Giusto. Non è che voglio dire, ha a che fare con tante cose, anche con i comportamenti semplicemente autolesionisti, cioè totalmente autoaggressivi, no? Farsi male, dipendenze. Cioè, mm-hmm. La rabbia è dietro moltissime cose, diciamo così, perché la rabbia è la risposta naturale di fronte a una ferita emotiva. Cioè, se io vengo attaccato emotivamente o fisicamente, anche in modo involontario, mm-hmm, questo suscita in me una dimensione rabbiosa, che è legittima, okay? Se io non so che cosa fare, diciamo, di questo fiume interno, come lo chiamo io, cosa faccio? Lo trattengo e poi lo faccio esplodere in modo ingiusto verso chi non ha colpa, oppure lo trattengo e lo giro verso di me dicendo: queste cose capitano a me perché io me le merito. Ah, Quindi queste sono le due cose che non vanno bene. E in questo, dottoressa, come la si gestisce tutto questo flusso di rabbia? Allora, diciamo, il primo lavoro che cerco di fare io con le persone è aiutarle a capire perché si arrabbiano, cioè nel senso non tutte le persone si arrabbiano per le stesse cose, mm-hmm. ok? Allora è molto importante capire che cosa fa arrabbiare me. Faccio un esempio banalissimo, così ci aiuta: se qualcuno mi passa in fila mentre sono alla posta oppure mentre sono in macchina e, come dicono a Roma, sbroccano, sì. ok? Mentre invece altri no, è perché probabilmente ho una storia personale infantile in cui ero abbastanza invisibile, perché i miei genitori erano occupati, okay. perché erano il quinto, eh? Okay. Quindi ogni volta che si crea una situazione che ricostruisce dentro, quella sensazione, ricontatta il mio senso di invisibilità, io non riesco a controllarla, ok? Allora io lavoro con le persone, ma loro capiscono qual è la loro ferita e ci pongono rimedio, ok, in un altro modo. Quindi ad esempio cerco di diventare visibile in un modo tale che mi nutre, quindi se poi qualcuno mi passa davanti alla posta, sti cavoli, cioè, sono visibile, certo, tanto, davanti alla posta ci passano sempre davanti prima o poi qualcuno, quindi sì, basta, ma io non mi arrabbio mai, ma giustamente perché... oppure uno potrebbe dire: guardi, non me la prendo con lei, me la sto prendendo con mia madre che da ragazzino non mi ha dato abbastanza visibilità. Ma avrebbe già più senso, certo, certo. Quindi capisci, la cosa veramente importante è capire da cosa nasce, perché il modo reale di gestirla meglio, quindi non essere né esplosivi né depressi, è poi mettere mano alle nostre ferite. Chiarissimo. Dottoressa, purtroppo il tempo non è molto, ma io credo che noi lo moltiplicheremo, perché ci farebbe piacere averla di nuovo prossimamente. Prima di salutarla però, l'unica cosa: uno dei suoi testi, appunto Gestire la rabbia, ha all'interno del sottotitolo la parola mandala, o mandala, mi corregga. Sì, tutto mandala, ma okay, però, uguale. Che sì. Cos'è esattamente un mandala? Sono delle figure geometriche che hanno una storia antica orientale e che io ho tradotto in disegni, se la faccio molto semplice, sì. che aiutano a meditare e quindi a stabilire un contatto interno con se stessi, ad esempio su alcuni temi specifici. Quindi la dico semplice: se uno vuole lavorare sulla rabbia può anche scegliere un mandala, colorarlo insieme con lui, io lavoro sul significato dei colori, su perché ha scelto quella forma, e si apre un dialogo interno col proprio inconscio meraviglioso, secondo fantastico. Me fantastico, quindi se, cioè calmare la rabbia attraverso il colorare gli spazi vuoti. Certo, ma non vedo l'ora di risentirla, dottoressa. La ringrazio moltissimo e se volete saperne di più, Gestire la rabbia e la rabbia delle donne, della dottoressa Monica Morganti. A presto. Arrivederci. Grazie. Buona giornata. E oltre ai mandala da colorare, come ci segnalava la dottoressa Morganti, al 349-238-6666 arrivano messaggi di ascoltatori che ci raccontano come la gestiscono loro la rabbia. Ad esempio mi scrive, non si firma: per sfogare la mia rabbia ogni fine settimana ci riuniamo insieme ad altri amici al Parco 2 Giugno di Bari e andiamo giù pesanti con la nostra passione, la box. Grazie a questo posso affrontare tutta la settimana. Cioè, ve le date di santa ragione, un po' come, come Fight Club, appunto, in cui in sostanza cosa facciamo? Ci vediamo e ce le diamo fino alla fine. E poi ancora: quando l'ansia, lo stress, la stanchezza rischiano di togliermi il respiro, inforco la bici e cerco di allontanarmi tanto quanto basta per sentire solo il rumore della catena che trascina i denti nella corona posteriore. Allora la stanchezza fisica prende il sopravvento e mi trovo troppo stanco e affaticato per dare importanza alla rabbia. Diciamo, questo è un metodo semplicemente per stancarsi al punto da non sentire più tutta quella roba che sobbolle. È uno dei metodi che utilizza il protagonista della